Incontri di Gianfranco Fabi. Con la voce di Elisa e con le note e le parole di Tramonto a Nord-Est iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno e buon pomeriggio e buona domenica a Filiberto Zovico, responsabile editoriale della casa editrice Marsilio. Ecco, questa Elisa, Tramonto a Nord-Est. Beh, visto da Milano il tramonto è tramonto dall'altra parte, ma cosa vuol dire Tramonto a Nord-Est al di là delle note romantiche di una canzone? No, semplicemente una canzone molto molto bella di una cantante originaria, diciamo, delle nostre terre di Monfalcone. È una delle canzoni che ci piace di più, diciamo, ecco. Quindi un esponente del Nord-Est, responsabile editoriale della casa editrice Marsilio. Diamo una carta d'identità della casa editrice Marsilio. Beh, la casa editrice Marsilio nasce più di 50 anni fa da un gruppetto di studenti padovani, tra cui Cesare De Michelis, che poi ha svolto il ruolo di presidente in tutti questi anni. Si trasferisce a Venezia negli anni successivi e per 50 anni fa una grande operazione, diciamo, un grande editore che scopre la Tamaro piuttosto che la Mazzantini, ma che poi scopre anche Larsson, il fenomeno dei giallisti svedesi. Quindi, diciamo, un editore per certi aspetti eclettico, ma sempre culturalmente, diciamo, molto molto forte. E anche attento poi alla realtà del Nord-Est, un po' come rappresentante di una realtà economica che è diventata un po' un simbolo di una realtà economica della crescita che si è avuta negli anni 80 e 90 e poi delle difficoltà successive, una crescita basata sulle piccole imprese, sull'imprenditoria diffusa, sull'imprenditoria che aveva un rapporto poi diretto tra le grandi imprese che comunque c'erano e anche le piccole imprese, i distretti industriali. Il Nord-Est ha avuto dei momenti di gloria negli anni 80, forse. Sì, ha avuto dei momenti di gloria e noi non sappiamo neanche più se chiamarlo Nord-Est, nel senso che il mondo è molto cambiato. Preferiamo ormai chiamarlo le Venezie, ritornando in parte al passato, alla storia di quando Venezia era l'intero suo territorio, prima della frattura, diciamo, tra Venezia e il Nord-Est. È una frattura che stiamo cercando di ricomporre in qualche maniera. E negli anni Ottanta, però, quel territorio che Giorgio Lago definì il Nord-Est ebbe un momento di sviluppo davvero assolutamente eccezionale. Ricordo quando Bill Clinton mandò i suoi esperti a studiare questo fenomeno di anarchia diffusa, imprenditoriale, che ha prodotto questo miracolo. La cultura del capannone che nasceva appunto anche per iniziativa appunto di operai di grandi imprese che c'erano, tipo la Zanussi, e che poi formavano appunto le competenze necessarie per creare delle altre piccole imprese che diventavano subfornitrici, ma poi creavano anche dei nuovi mercati. Quindi una capacità che nasceva quasi all'improvviso. Il Veneto e il Nord-Est erano terra di emigrazione fino agli anni 50-60. Sì, esattamente, succede così. C'è un bellissimo libro di Gigi Copiello, ne approfitto per parlare anche di qualche libro che racconta possiamo questa farlo, trasformazione. Anche se non è edito da Marsilio, possiamo citarlo. Sì, sì, sì, questo casualmente è edito da Marsilio, ma perché è un ambito, diciamo, che coltiviamo con particolare attenzione. Dicevo, questo libro di Gigi Copiello, Dottore in Malta, racconta questo 68, diciamo, degli operai veneti e friulani in particolare, che esplode nel il grido libertà dal lavoro e loro si trasformano in imprenditori. Cioè, anziché, lui dice, ex sindacalista, anziché, come dire, andare nella direzione che noi del sindacato ci immaginavamo, loro hanno capito che bisognava liberarsi dal lavoro e sono diventati imprenditori. Quindi ecco, una lotta di classe che in fondo ha superato le classi, ha fatto diventare imprenditori i proletari, e poi è la maniera migliore per far uscire il proletariato dalla schiavitù del lavoro. Esattamente, è successo così, diciamo, hanno lavorato tantissimo, sodo, mondo e hanno costruito un modello che è ancora unico dal punto di vista del modello culturale e sociale, insomma. Che ha avuto la sua trasformazione, la sua crisi. Come sta adesso il Nord-Est? Ma adesso il Nord-Est sta in una crisi profonda. Sta in una crisi profonda, come ci sta un po' tutto il paese, ma forse ancora di più. Fondamentalmente per due ordini di ragioni. Una parte dell'imprenditoria si è seduta, non ha, come dire, trovato nuovi modi, nuove capacità per stare nei nuovi mercati e così via. Dall'altra parte la crisi del paese pesa molto e gli elementi di pressione fiscale, di vincoli, di blocchi tendono a ingessare un modello che invece avrebbe bisogno di molta libertà per esprimersi appieno. Cioè non ha saputo innovarsi, non ha saputo trovare l'innovazione, eppure anche nel Nord-Est ci sono università, ci sono delle capacità di trovare, appunto, di dare dei giovani delle prospettive, e non mancano queste prospettive anche a livello dei giovani, non mancano start-up nel Veneto. No, non mancano assolutamente, stiamo parlando, come dire, quando noi diciamo che è andato in crisi, parliamo magari di un 50, 60, 70% di aziende, ma su numeri che sono impressionanti. Ci sono aree del Veneto in cui ogni 7 abitanti c'è un imprenditore, quindi come dire, stiamo parlando di numeri assolutamente rilevanti. No, non ha saputo, diciamo, rinnovarsi perché in qualche maniera non ha capito che il mondo diventava sempre più grande e che quindi aveva bisogno di proiettarsi molto guardando ai grandi mercati molto più lontani, e quindi che doveva anche rompere un po' le logiche di campanile per cui 7 università, 4 aeroporti, 12 fiere, insomma, e doveva invece, come dire, mettersi in rete e fare massa critica. Adesso lo sta capendo, c'è questo progetto al quale, che noi supportiamo e a cui teniamo molto, di Venezia come il Nord-Est capitale europea della cultura 2019, che ha questa, diciamo, ambizione di dare dimensione metropolitana, dare servizi efficienti e fare in modo che queste start-up siano in grado di arrivare non da Venezia a Milano, cosa che è ancora difficile perché, certo, non abbiamo l'alta velocità, ma da Venezia a Hong Kong, Shanghai, Brasile e così via. È uno degli ultimi libri che avete pubblicato, si intitola 11 idee per l'Italia. Sì, questa è, diciamo, una nuova collana che si chiama Agenda Marsilio ed è un esperimento che riteniamo molto interessante. Perché anziché, diciamo, costruire un gigantesco castello ideologico che prova a disegnare un futuro per il paese, abbiamo fatto l'operazione inversa. Abbiamo chiesto a 11 protagonisti che hanno già realizzato qualcosa di concreto di raccontare come lo hanno realizzato in maniera che possa essere copiato. Le faccio due esempi. C'è un gruppo di 11 sindaci di paesi molto piccoli che al di là delle normative si sono messi insieme, hanno creato un'unione dei comuni, risparmiando nei servizi forniti al cittadino del 30% e portando i livelli di efficienza a livello molto superiori. Cosa che se tanti altri piccoli comuni in Italia facessero, avremmo risolto di per sé il problema della pubblica amministrazione senza bisogno di grandissime, diciamo, operazioni. Oppure del musicista Mario Brunello, che vive in una città molto bella peraltro che si chiama Castelfranco, ma circondata di capannoni, prende in affitto un capannone e lo trasforma in un centro culturale che lui stesso con gli amici artisti anima ogni sera o quando rientra dalle sue tournée, ed è diventato uno dei centri culturali più interessanti del Veneto senza spendere un euro pubblico. Ecco, quindi anche un'iniziativa privata che si muove diciamo un po' ai margini della logica tradizionale dell'impresa che costruisce qualcosa, ma che cerca anche nuove strade. La cultura, i servizi sono forse nuove strade in cui il Veneto può muoversi in maniera efficace. Sì, guardi, lì c'è una tradizione, come dire, anche di cultura cattolica da questo punto di vista e solidaristica molto forte, che non ha mai voluto, diciamo, farsi cogliere dalla logica che lo Stato doveva fare tutto. Lo Stato, come dire, deve dare servizi essenziali, ma poi la comunità si organizza. C'è un episodio divertentissimo, mi hanno raccontato, di Treviso, in cui Rifondazione Comunista si è battuta contro la chiusura degli asili nido gestiti dalle suore. Quindi, come dire, anche le barriere ideologiche da certo. quel territorio sono molto diverse. Prevale il pragmatismo, la realtà, il fare i conti con la realtà. Comunque, ecco, c'è questa trasformazione. Ecco, ripartiamo un po' da Venezia. Venezia sì. è un po' un tema che il futuro della città, una città che si sta spopolando, c'è questa grande polemica sulle navi che passano dal bacino di San Marco, una città che sta diventando quasi una Disneyland solo per i turisti e così via. Quale può essere il destino, il futuro di Venezia? Non tanto il destino quanto il futuro di Venezia. Guardi, Venezia, come dire, ha conosciuto negli anni tantissime trasformazioni, insomma, no? È stata città di commercio, è stata città, no? L'arsenale di costruzioni. Negli ultimi anni è diventata città, come dire, turistica, ma più che turistica era turismo d'assalto. Oggi Venezia ha il problema fondamentalmente di immaginare un nuovo futuro. Ed è il problema più grande e nessuno lo sta in qualche maniera raccontando. Lei vive a Venezia? No, io vivo nella metropoli, diciamo, e quindi... E lavoro a Venezia. E lavoro a Venezia. Quindi c'è anche un pendolarismo non solo dei turisti, ma anche... Di chi lavora. Come è normale a Milano, diciamo, quando uno dice vive a Milano, magari vive a Sesto San Giovanni, piuttosto certo. che a Rho e così via. E anche quell'area lì è diventata una metropoli vera e propria, cioè tra Venezia e Montecchio Maggiore, per dire, che oltre Vicenza, quasi a Verona, non c'è soluzione di continuità nell'area. Allora, per tornare al futuro di Venezia, probabilmente il futuro di Venezia sta nel suo passato, cioè nella capacità di tornare ad aprirsi e a vivere il rapporto con il suo territorio come un rapporto vero, come una dimensione metropolitana vera. Insomma, la Serenissima Repubblica arrivava fino a Bergamo, ecco. Certo, noi in San Marco era, si vede ancora, appunto, al di là dell'Adda. Quando... Sì, quella è la dimensione di Venezia. C'è un racconto... Beh, c'è un po' di nostalgia, forse, in questa Serenissima che arrivava a Bergamo. Ci sono dati culturali. Se lei nota, il tessuto della piccolissima e media impresa è sviluppato fondamentalmente dentro i confini della Serenissima Repubblica. Ed è un dato culturale, perché, diciamo, è un dato storico che quella Repubblica porta con sé, ha creato dei modelli che poi si sono... Beh, possiamo anche discutere se fosse il retaggio della Serenissima, cioè la tradizione della Serenissima, o qualche influenza ha avuto anche l'imperiale regio governo austriaco, in fondo con un'amministrazione... Poi si può discutere su tante altre cose, ma l'amministrazione austriaca era certamente un'amministrazione efficiente. Assolutamente. A Trieste, diciamo, hanno ancora... C'è qualche nostalgia sia per l'imperiale regio governo, sia per la Serenissima. Ma sì, c'è, come dire, la voglia di tornare a livelli di efficienza che sono un po' di anni che in questo paese non si vedono, ecco. Ecco, livelli di per efficienza. Essere gentile. Per essere gentile, per parlare proprio, per non parlare di politica, come esatto. si può dire. No, ma non c'entra la politica, è proprio un costume del paese. Ecco, ma appunto si parla di Nord-Est, in teoria dovrebbe comprendere il Veneto, il Trentino, l'Alto Adige, il Friuli, Trieste, la Venezia Giulia. Però c'è molta differenza anche a livello proprio politico. Una regione normale come il Veneto, una regione autonoma con una larghissima autonomia come Trentino e Alto Adige, regione autonoma anch'esse con una certa autonomia come il Friuli e la Venezia Giulia. Quindi si può ancora parlare di Nord-Est? Ma guardi, credo che il Nord-Est o le Venezie sia un dato culturale fondamentalmente. Se lei va a Pordenone si sente di casa, perfino a Udine, mentre le regioni autonome, diciamo, ormai anche loro si stanno svuotando di quella carica di denaro che era quella che poi faceva la grande differenza, insomma, no? Industria assistita, industria competitiva. Per fortuna la crisi sta uniformando un po' le situazioni e ne emergono i dati veri. È anche vero che negli anni l'intero paese si sta modificando. Per certo. andare a un libro di Beppe Berta pubblicato qualche anno fa, in cui si raccontava che il nord-ovest si sta nordestizzando e il nord-est si sta nordovestizzando, insomma c'è un cambio, come dire, di fase che riguarda un po' tutti. Nord-est non può pensare di vivere sempre di piccole e medie imprese, ha bisogno che le sue medie imprese crescano. Certo. Incontri. Yeah. Ancora con la voce di Elisa, Tramonto a Nord-Est, riprendiamo il nostro incontro con Viliberto Zovico, responsabile editoriale della casa editrice Marsilio. Abbiamo parlato nella prima parte del Nord-Est, delle trasformazioni, anche delle difficoltà, se non della crisi, di questo modello di crescita, che è stato un modello molto positivo negli anni 80-90, visto crescere un'imprenditoria diffusa nel territorio, capace anche di internazionalizzarsi partendo da questo territorio. E abbiamo parlato anche delle prospettive di Venezia, di un centro indubbiamente mondiale della cultura, di un centro mondiale del turismo, che si deve integrare appunto in una regione, ma con difficoltà, certamente con qualche problema anche nel riconoscere quale può essere il futuro di questa città, il futuro del Veneto. Allora, con Filiberto Zovico guardiamo ancora a questo futuro, in cui la cultura, e una casa editrice fa cultura, deve fare cultura, è una realtà importante. Come la cultura riesce a inserirsi nel sistema imprenditoriale, nel sistema economico, in una realtà come quella del Nord-Est? Ma guardi, le faccio un esempio, perché appunto cultura è un termine largo. Nei giorni scorsi sono stato in un'azienda che si chiama Gli Alcuni, che conoscono fondamentalmente solo le mamme e i bambini, perché producono cartoons. Li producono per Rai 2, li producono però per Al Jazeera e per altri 60 paesi nel mondo. Hanno qualcosa come 5.000 collaboratori nel mondo e sono una industria culturale enorme nella produzione culturale per bambini. E sta a Treviso, c'è una casa cinematografica che è la Iole Film, che produce Mazzacurati, ha prodotto l'ultimo film di Andrea Segre, Io sono lì, che vince premi in tutta Europa. Ma c'è un'azienda che stampa i libri, che è la Grafica Veneta, che è la più grande industria grafica del Nord-Est. L'industria culturale, in termini stretti, è già un'industria fortissima, diciamo, che caratterizza appunto la stessa Marsilio nei suoi, diciamo, limiti, che caratterizza quel territorio. Ricordo non a caso che esiste il premio Campiello, certo, che è un premio fatto dagli industriali. Ma c'è qualcosa di più che è emerso negli ultimi anni, e sono le industrie culturali creative. La Diesel di Renzo Rosso, piuttosto che alcune note industrie di mobili come la Lago e così via, vivono sostanzialmente nel costruire prodotti, nel creare prodotti che hanno un fortissimo contenuto da una parte e di tecnologia, che è cultura, certo, di marketing e di comunicazione, che è cultura, e di design, che è sempre cultura. E attraverso la cultura vincono nei mercati mondiali. Noi abbiamo fatto un festival delle città impresa un paio d'anni fa, forse è stato ospite anche lei, sì, credo, sì, sì, che si chiamava La cultura ci fa ricchi, proprio per spiegare come l'impresa creativa è un elemento determinante al Salone del Mobile di Milano. Un terzo, credo, delle imprese del settore del mobile sono delle Venezie. Ecco, e c'è un percorso, diciamo così, culturale, una logica culturale, ovviamente ci deve essere in una casa editrice come la Marsilio, però qual è questo percorso? Che missione si sente una casa editrice di Venezia all'interno di questo sistema, all'interno di un sistema in cui appunto l'imprenditoria ha bisogno della cultura e crea a sua volta cultura? Quale può essere questa missione? Ma guardi, cinicamente, una volta ne parliamo anche tra di noi e uno dice: basta che un libro venda. Ed è una missione, come dire, molto... In realtà non è mai così, insomma, la scelta dei libri rispecchia in qualche maniera l'anima di un editore, la sua, come dire, vocazione, curiosità, attenzione, rete di relazioni che ha costruito e che costruisce giorno per giorno nel mondo, l'attenzione ai fenomeni nuovi. Quindi in qualche maniera la Marsilio ha, come dire, radici molto profonde, diciamo, nella cultura delle Venezie, e però ce l'ha nella maniera corretta, credo, che è quella, come dire, di quelle Venezie che parlavano al mondo, insomma, no? Da Marco Polo, certo, quindi un'attenzione al mercato editoriale, e appunto alla pubblicazione degli autori che hanno un grande successo di pubblico va in questa direzione, ma anche portare all'attenzione degli autori italiani, penso al collega Dario Di Vico con il suo Piccoli e altri libri di questo tipo, che analizzano però la realtà e che cercano di far maturare anche una certa capacità di osservazione della realtà. Sì, guarda, ci sono due modi di guardare la realtà fondamentalmente: quello in cui tu ti metti un paio di occhiali che ti dicono che la realtà è quella anche se non è quella, no? e quindi ti continuano a raccontare le cose esattamente identiche a se stesse, che è molto rassicurante. Cioè, molte case editrici, molti giornali vendono molto rassicurando i propri lettori che nulla è cambiato, che è sempre così, che ci sono sempre i buoni e i cattivi, eccetera eccetera, chiunque siano i buoni e i cattivi, certo, non ha nessuna importanza. E c'è chi invece ti aiuta a leggere le trasformazioni dicendo: guardate che qui sta accadendo questo di nuovo, cosa significa, come cambia. Ecco, la Marsilio a questo punto di vista, soprattutto nella saggistica, diciamo, ma anche nella letteratura, banalmente nel fenomeno degli svedesi, noi abbiamo visto la crisi della società svedese che poi è esplosa nei drammatici fatti dell'estate scorsa. Nella realtà socio-economica, lei citava per esempio il fenomeno Piccoli portato avanti da Dario Di Vico, o anche l'altro libro, Il futuro artigiano di Micelli, che anticipa, recupera Sennett, e proprio nelle settimane scorse era a San Francisco a discutere con Chris Anderson sul fenomeno del ritorno alla industrializzazione. Ecco che Di Vico e Micelli, per esempio, su tutto questo fenomeno hanno messo le lenti molto prima. Ci divertiamo a fare dei libri che uno legge adesso e scopre la realtà che accade fra 3 anni piuttosto che farli 3 anni dopo. Ecco, questo è molto interessante. Appunto, un po' di orgoglio. La capacità di leggere la realtà anche in prospettiva. Tornando al mercato editoriale, comunque anche il mercato editoriale ha qualche difficoltà. Si leggono meno libri di prima, i giovani sono attirati forse più dagli strumenti, dai social network, piuttosto che da un bel romanzo o da un bel saggio. Come affrontare queste difficoltà del mercato editoriale? Ma la difficoltà fondamentalmente è una difficoltà principalmente commerciale in questo momento, nel senso che non è tanto il numero dei libri che cala quanto, diciamo, e poi ci sono occasioni di lettura diverse, stiamo molto di più tutti quanti sui social network, in internet e così via, quello è tempo, diciamo, rubato alla lettura del libro. Credo altresì che non si vinca la battaglia, diciamo così, con posizioni pregiudiziali, ma facendo degli ottimi libri che uno è costretto a leggere, perché se non li ha letti ha perso qualcosa. Credo che sia un po' il segreto sempre di tutte le... E quindi in prospettiva il libro di carta ha ancora un futuro? Ma io sinceramente, per esempio, sono convinto che no. Sono convinto che no, come... no, no, no, bisogna guardare, c'è chi ritiene che invece no, ci sarà sempre un pubblico di affezionati eccetera eccetera, ma io ricordo che circa 5 anni fa chiesi a una collega che incontrai a Londra su come i ragazzi coreani leggevano i libri, e lei mi disse: ma li leggono sul telefonino. Certo. E mi colpì molto, ancora 5 anni fa, non sul tablet o sul telefonino. Leggere un libro per me è un'esperienza che non... Però bisogna guardare ai comportamenti di queste generazioni e capire quali strumenti bisogna dargli. E capire appunto quali strumenti, perché io, parlando con un altro editore, con un suo concorrente, mi diceva: ma il futuro sarà dei libri letti sui tablet, soprattutto per gli anziani. Ma perché? Perché possono aumentare la grandezza dei caratteri come vogliono, cosa che con un libro normale non si può fare. E quindi capiranno gli anziani che leggere il libro sul tablet è il loro futuro e il modo di leggere i libri. Questo è uno delle tante applicazioni possibili. Ecco, quindi in questa prospettiva possiamo avere un futuro che comunque, quali che siano gli strumenti, la carta o l'elettronica, però il libro sarà sempre necessario, il modo di comunicare sarà sempre necessario. E guardando al Nord-Est, quale può essere allora il futuro di questa regione, tenendo appunto la prospettiva che abbiamo detto prima, la prospettiva dell'imprenditoria, dell'industria, ma anche quella della cultura, che non sono due cose separate, anzi, devono viaggiare sempre più a braccetto. Possiamo guardare al futuro in questa prospettiva? Ma guardi, lei ha fatto bene l'esempio. Una volta si leggeva sulla pergamena, poi e siamo arrivati al libro, adesso al libro elettronico. Il punto è sempre questo, anche per le Venezie, per il paese... È quello di, come dire, cercare di rinnovarsi sempre, avendo un forte ancoraggio alla propria tradizione. Quindi sembra una banalità, ma non è facile rinnovarsi continuamente nella propria tradizione. Questo sarà utile, diciamo, alle Venezie e anche al paese. E il futuro di quello che qualcuno chiama il dialetto e qualcun altro chiama la lingua veneta? Le lingue, diciamo, sono un fenomeno molto, come dire, radicato. Si pensa al friulano, a tante altre lingue che ci sono in questo paese. L'importante è la cultura è sempre un fatto aperto. Ognuno porta la propria identità e la confronta con altre identità. Tanto più la propria identità è forte, tanto più riesce a comunicare con gli altri e non ha bisogno di difenderla con leggi e con leggine, diciamo. Quindi comunicare resta un obiettivo fondamentale, qualcosa che ci mette in relazione gli uni con gli altri e ci aiuta a vivere tutti un po' meglio. Esatto, Grazie, grazie a grazie a voi. grazie a Filiberto Zovico di essere stato con noi questo pomeriggio, responsabile editoriale della casa editrice Marsilio, così come ringrazio Peter Bescapè in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che tutte le puntate di questo programma possono essere riascoltate dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.